快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 踏着音乐的脚步轻舞飞扬，乘着歌声的翅膀遨游音乐的海洋。有限古典音乐广播98.6兆赫，每天10点、22点播出。歌舞剧场，爱与心灵的天堂。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。 请欣赏帕瓦罗蒂1993年在他的家乡意大利摩德纳的大广场举行的《我心中的欢乐》演唱会。意大利女高音演唱家鲁奇亚·福切里加盟，他们演绎了选自歌剧《蝴蝶夫人》、《图兰朵》、《江尼斯基基》、《艺术家的生涯》、《乡村骑士》、《卡门》、《友人弗里兹》、《风流寡妇》、《微笑的大地》、《波基与贝斯》、曼农·莱斯科、茶花女等著名歌剧中的咏叹调，以及我的太阳、格拉纳达等意大利歌曲。下面请连续欣赏。 fanciulla m'ascolta. Cercare che giova al ma per fortuna una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole. Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Poiché ha preso stanza

del buon dì. D'un gaio rosignuolo la voce mi svegliò. Mi piace come canti. Oh, signor Fritz, canta così, come mi viene il cuore. Quei fiori son per me, certo. Le ciliegie, ciliegie, e son di già mature. Onde la porpora il vivo colore, son dolci e tenere. Di primavera somiglia un fiore, bell'augellino le saprò prendere. Fresche scintillano, di brina ancora son tutte roide. Quell'incanto nel risveglio di fiori, Rinnovella fiore. La notte io sono d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il Sei tu bruna stella di lume, Vento, portami via con te.

la bellezza i fiora e là fuggevo l'ora si ne bria voluta di viarne i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore ogni possenteva amore fra i codici più caldi baci avrà 到歌舞剧场，我是古月。 接下来，请欣赏1988年6月多明戈与凯瑟琳·巴特尔在东京音乐会的精彩现场。列文指挥梅特罗波利坦歌剧院管弦乐团担任器乐部分的演奏与伴奏。音乐会的曲目有《命运之力》序曲、歌剧《茶花女》中的二重唱《离开巴黎的日子》、《唐·帕斯奎莱先生》中的咏叹调《姑娘的秋波》、《拉美摩尔的露西亚》中的咏叹调《你张开了升天的双翼》、《爱之甘醇》中的咏叹调《亲爱的酒》、《意大利女郎在阿尔及尔》的序曲等。下面请连续欣赏。 dove sei? Da questo palpito ci ho da m'impare, senza desistere non potrei. Ma sei indietro, hai ritrovato, come degli uccelli, hai dolore. Scorda la mano, donna adorata, dame perdono al genito. Chiede perdono, mi darei a suo Dio, ma sulla morta mi rende. Non lo amo, demon, angel mio, mai più dividermi potrà da me. Non lo amo, demon, angel mio, mai più dividermi. Mai più, mai più, no, no. Thank you. so anch'io la virtù magica d'uomo e dell'uomo son io come si bruciano i cuori al vento fuoco d'un breve sorrisetto con lo spocchio del vento ti penso nella lacrima d'un soletto languor conosco i limoni dell'uomo rosi frondi i versi morti facili per adescare un cor d'un breve sorrisetto con lo spocchio del vento conosco conosco d'un subito languor son io la virtù magica palette d'un'altra stirpe infelice de raccogliete voi.

una prova. Mi soffrir primiero. Dimenticarlo io spero. Comunque l'antico fuoco si estinguerà fra poco. Ancora un giorno solo e il cuore guarirà. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反